Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Everything to us. Our love was flawless and nobody interfered. But certain things are now falling apart. Now I feel so guilty about it. If I think of you, my love, the memories of hell just fade away. Electricity is in the air if you're around. Magnetism makes me follow you. That's why I'm mind. Holding you made me decide what I felt for hell was just a lie. You're the person that vibrates the strings within my soul. Now I'm sure I'll never let you go. Because se deve finire, meglio ritornare soli da stasera. Vada come deve andare, vada senza ritornare, vada se sa dove andare, questo tuo amore. Siamo qui senza più parole, siamo qui senza una ragione, siamo qui solo a farci male, ma siamo qui. Vivere senza di te non vale. Vivere senza di te è morire. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, sì, Gigi D'Alessio non poteva andare oltre perché dobbiamo cominciare la trasmissione. Buonasera a tutti, buonasera da Blu Radio Sera, buonasera da Emily Guerra che è venuta a trovarci da Verona. Buonasera a buonasera, tutti. Stai bene? Hai fatto sì. Un buon viaggio. Benissimo. Buonasera a Marco Borgato che è il nostro regista occasionale, vero Marco, stasera? Sì, stasera abbiamo una cantautrice che viene da Verona, ma cantautrice che si è formata come Emily, come è cominciata la tua carriera di cantautrice o di cantante prima? Esatto, sì, assolutamente sono partita come cantante, prima di cantautrice. Diciamo, ho iniziato a cantare da piccolina, da bambina, ho iniziato a studiare canto a circa 15 anni. E da lì, insomma, è partito hai, un hai po' cominciato iniziato. Il discorso. Ma esatto. Hai cantato su gruppi, su formazioni, sei formata musicalmente su questo? Assolutamente sì, insomma, facendo lezioni di canto, chiaramente, appunto, ho iniziato a studiare a 15 anni e poi le classiche cover band. Cover band di cosa, Emily? Ho 360 gradi, ho cantato veramente di tutto nella mia vita. Ma serve molto cantare di tutto per formare poi, per andare avanti da solista? Beh, io penso che qualsiasi cosa abbia fatto, qualsiasi esperienza abbia in qualche modo fatto in modo di arricchire, insomma, il mio percorso, insomma, quindi assolutamente sono contenta di aver fatto tutto quello che ho fatto. Dunque partiamo, tu leggo nella tua biografia, settembre 2000 hai frequentato l'Accademia di Sanremo, che c'era Bebe Bisicchio. Com'era l'Accademia di Sanremo del settembre 2001? Oddio, 2001. È passato anche un po' di tempo. Sì. Assolutamente, insomma, un'esperienza sicuramente positiva, nel senso tutto serve a crescere. A crescere. E a farsi le ossa, diciamo così. Poi nel 2001 vinci il premio speciale della critica nel concorso Ritmi Globali Europei. Cosa sono questi Ritmi Globali Europei? Ma questo è un concorso, un bellissimo concorso che penso esista ancora, tra l'altro. Ed è stata veramente una bella esperienza, anche perché lì ho, tra l'altro, ho portato un mio brano inedito per la prima volta. Cioè avevi scritto un pezzo? Avevo scritto un pezzo. L'avevi arrangiato te, chitarra e voce? No. Beh, è nato appunto pianoforte e voce, poi è stato arrangiato invece da Vincio Bianchini e appunto è un pezzo che ho scritto in inglese, perché all'epoca scrivevo i in testi inglese. In inglese. Gli ascoltatori non lo sanno, io ho sentito in anteprima alcuni pezzi suoi e c'è qualche reminiscenza, qualche amore per Kate Bush che si avanza, che si insinua, poi se ne va, vero? Ah, sì. I tuoi ascolti sono collegati a questa grande musicista inglese? Beh, a me piace sicuramente molto, poi ci sono tanti altri artisti che sicuramente ti hanno influenzato. Ah, sì, assolutamente, tanto, sì. Questo premio ti ha fatto vincere una possibilità di andare al CET di Mogol, è così? Sì, è così. Ricordiamo che cos'è il CET, è una scuola. Esatto, è una scuola. Che forma i musicisti, praticamente. Esatto, poi ci sono chiaramente varie materie, nel senso che appunto uno può essere iscritto come autore piuttosto che come arrangiatore o come interprete. Io sono andata nella sezione appunto autori. Autori. Esatto, di testi, ed è stata un'esperienza molto, molto bella. Poi tra l'altro, insomma, è passato un po' di tempo, forse se la rivivessi adesso la vivrei in modo un modo po' diverso. Sì, però insomma mi ha aiutato a mettermi un po' in gioco e sicuramente ho imparato moltissimo, e tra l'altro anche ho conosciuto delle persone, proprio dei compagni di corso che veramente mi restano nel cuore sempre. E poi hai giocato anche con i cartoni animati, nel senso positivo del termine. esatto, sì, assolutamente. Per 3 anni ho cantato nei musical di Gardaland. Per cui anche che cos'è il musico di Gardaland? Praticamente è una specie di contorno a Sono proprio all'interno del teatro, del teatro di Gardaland. Esatto, sono dei musical fatti dal vivo. E si fanno all'americana, 4-5 spettacoli al giorno, e quindi si è sempre su un palco con una platea piena. Quindi sempre live, assolutamente. Tutti i giorni, sì, e quindi insomma è stata veramente una palestra incredibile. Poi insomma il genere ovviamente è legato ai bambini, certo, però a me è piaciuto molto. Che non è che molto sia più facile non gli altri, assolutamente. Poi i bambini sono molto critici, assolutamente, sono dei critici incredibili. Esattamente. abbiamo innanzitutto leggermente aperto la finestra su tutte le tue attività, ma adesso cominciamo a sentire un pezzo. Certo. da questo disco che uscirà fra poco, praticamente. Sì, l'11 maggio. Finalmente, dopo quanta sofferenza. Parecchia, ma è assolutamente ripagata adesso con la soddisfazione di aver finalmente in mano il CD. Quella è una cosa molto molto bella. Sì. Iniziamo con un primo pezzo che si intitola Emily. Piume, che è la title track, così si dice. Esattamente. La sentiamo esattamente. E poi ne parliamo. Certo, okay? Volentieri. Blu Radio Sera. Eccoci qua, abbiamo sentito allora la title track, si dice così. Come è nata l'idea? Innanzitutto l'idea di fare questo pezzo e l'arrangiamento un po' complesso, non è un arrangiamento molto semplice, è abbastanza corposo. Sì, sì. Come sì, mai, Emily? Diciamo che proprio quando è nato il brano ho sentito subito un po' questo. Il brano è nato da te praticamente. È nato pianoforte e voce. Chitarra e voce. Perché stasera Emily è con la tastiera praticamente. Sì. Bella tastiera, bella grande, che copre tutta la tavola quasi. Anche di più. Esatto. Anche di più. Esatto. Chiaramente a casa mi registro e quindi cerco sempre di fare una bozza di quello che è l'arrangiamento che vorrei seguire, che sento in testa, ecco. Certo. E di questo sono stata molto contenta con Diego, perché è stato molto fedele. Diego è il tuo produttore. Esatto. Si chiama Diego. Diego Calvetti. Calvetti, esatto. Che è un ragazzo toscano. Sì, esatto. E sono stata appunto molto contenta, perché non ha assolutamente snaturato quella che era la mia idea proprio iniziale del brano, anzi veramente ha seguito, cioè, diciamo. Quando il pezzo è stato costruito da te, tu l'hai fatto sentire a Diego e Diego, esatto, avete deciso assieme di ristrutturarlo in questa maniera. Esatto. E questo arrangiamento l'ha creato lui o? Allora no, ovviamente l'ha creato lui, anche insieme, poi eravamo sempre insieme, ma ovviamente lui ha arricchito un sacco e ha curato tutto, insomma tutto quello che tutte diciamo le parti abbastanza spinto come arrangiamento, abbastanza non calmo, velutato, come la tua voce sembra indovina. Sì, effettivamente diciamo è abbastanza grintoso. Giusta, grintoso, esattamente. Continuiamo la carriera tu hai fatto per arrivare a questo. Poi ho visto, sempre leggendo, che hai fatto una partecipazione a una etichetta discografica come turnista. Beh sì, diciamo che a livello lavorativo. Quello appunto, a volte capita pure di fare qualche turno in studio di registrazione. Destinata a un'etichetta che parla molto al mercato giapponese. Sì, esatto. Sono pezzi dance destinati appunto a quel mercato. Come si conviene l'Emily che fa dance e l'Emily che fa musica di questo genere? Questa è una bella domanda. Io penso di avere veramente tante sfaccettature. Uso la voce in modi diversi. Però credo che quando canto le mie canzoni, spesso gente che mi conosce da anni, che mi sente cantare da anni, dice ma sei tu, canti in modo strano. Però io sono molto soddisfatta, perché mi ritrovo molto con questo modo di cantare, e mi sento molto, come dire, sincera nel modo di interpretare le mie canzoni. Quindi riesci a fare la dance? La dance si fa perché si deve anche lavorare, chiaramente. Si può fare un po' di tutto. Però adesso è un progetto con un gruppo che ha una finale artistico, si chiama Zucchero Kandinsky. Zucchero Kandinsky, sì, è una realtà che nasce da 2 anni con due chitarristi, Luca Peretti e Luca Zanotti. E vai in giro con questa band? È una formazione acustica dove presentiamo cover rivisitate, riarrangiate. In che modo? In un modo appunto acustico. Su che genere? Totalmente diverso o vicino all'originale? Certi pezzi sono completamente rivisitati, altri pezzi invece si rifanno appunto all'originale, però appunto con sonorità. Ti faccio questa domanda perché un gruppo recente che è venuto qua qualche mese fa faceva cover famose in versione rock and roll. Ah, ok. E quindi in versione rockabilly, cioè snaturava il tutto in questa versione. Certo. Che più una versione era costruire un pezzo nuovo, anche se si sapeva che l'originale era in questa maniera, lo cambiavano, lo trasformavano. Certo. È un modo come un altro per proporre qualcosa di strano, di divertente. Sì, assolutamente. Adesso facciamo le cose fatte bene, quindi suoniamo qualcosa. Sono le 21:21, assolutamente in diretta. Assolutamente. Emily, con cosa cominciamo questa cavalcata fino alle 10:30? Oddio, allora io nel mio programma mentale volevo partire con Piume, ma non importa. Vabbè, puoi partire con Piume lo stesso, no? Non c'è problema, dai la versione che acustica, acustica versione diversa. Adesso abbiamo sentito la versione orchestrale, la versione aranciata, sentiamo la versione scevra, scarna, certo, di tutto. Scarna, perfetto, okay. Dai, allora posiziono un attimo l'asta, ecco, mettiamo a posto l'asta del microfono, adesso posso alzare. Ecco, alziamo l'altro, è tutto in diretta, tutto al vivo, anche le diversità dei microfoni, bisogna posizionare anche i microfoni, è tutto in diretta, c'è poco da fare. Ok, tolgo il mute. Ok, perfetto, allora piume, pianoforte e voce. Eccoci qua. Ok. Labbra sottili si sfiorano, come due piume si toccano, il tuo respiro si mescola con il mio, guancia, guancia, quando tu mi abbraccerai. Le mie ciglia sul tuo collo sentirai. Ho descritto sul quaderno ciò che vedo, sei tu, senza foto ho ritratto ciò che guardo, sei tu. Dolci parole si spengono come le luci della casa, bianche le tende svolazzano come track adesso in versione assolutamente acustica, è la versione diversa, decisamente diversa. Assolutamente diversa e interessante, anche è una si può benissimo anche riproporre in versione acustica un pezzo simile. Assolutamente sì, infatti l'idea è quella. Li presentiamo quando l'album esce il 15 maggio, l'11 maggio. Ma come lo presenterai? Che hai già idea di qual come li organizzerai come presentazione dell'album? Tanti, innanzitutto salutiamo Deb Bonato, che grazie, che è il nostro gancio, grazie a lui mille. Stasera sei qua, e il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che anche lui ti ha voluto qua stasera. Oh, okay. Grazie mille. E allora, sì, com'è l'idea di presentare l'album praticamente? Assolutamente andremo con una formazione acustica, quindi pianoforte, chitarra, basso e percussione. Ah, però ci sarà anche la batteria allora. Sì, batteria o percussioni. caon, è un caon, va bene. Qualcosa di movimento, quello esatto, sì. Esatto, su qualcosa sì. Che fa muoversi, esatto. Ci vuole. Quindi lo presenterai praticamente questa novità assoluta. Sì, esatto. È esatto. Una grande emozione. O no? Sì, assolutamente. È da tanto tempo che aspetti di una cosa simile. Sì, anche se in realtà qualcosina abbiamo già presentato in giro, però assolutamente un'emozione, quello sicuramente. Cosa vuol dire arrivare dopo tanto tempo? Tu sei giovane, cari ascoltatori, la Emily è molto giovane, però dopo tanto tempo, tanta carriera, tante cose fatte e che continui a fare, arrivare a presentare un disco tuo di Emily Guerra. È un sogno. È un sogno, si rompe qualcosa, finalmente si arriva dopo anche tanto tempo perso, ma non perso in senso negativo, in senso positivo, a fare, a rifare, a trovare, a cercare il momento giusto. Sì, io penso che nel momento in cui arrivi ad avere il tuo EP, nel mio caso un EP non è beh, ancora già, un sì, già inizia con un EP e esatto, poi si va avanti. Esatto, però è incredibile, non avrei mai immaginato quanto lavoro potesse esserci. Quanto ci vuole tanto lavoro, vero? Ci vuole tanto. Anche per fare un solo pezzo quanto lavoro ci vuole? Taglia, cuci, cioè nel senso positivo, cioè non va bene così, non mi interessa, cioè mi interessa quel sistema là, devo cambiare il sistema, eccetera, assieme al tuo produttore. È un lavoro continuo. È una ricerca. È una sì, ricerca, certo. Una ricerca. La ricerca della perfezione che però non arriva mai è questa. Quello è un po' difficile. Quella non arriva mai, però riuscire ad essere soddisfatti del lavoro che si fa, questo è importante. E io devo dire, finalmente posso dire di sentire le mie canzoni e di ritrovarmici. Ecco, dopo un po' di tempo, anche perché comunque in realtà è veramente da tanti anni che scrivo, perché ho iniziato più o meno quando ho iniziato a studiare canto. Quanti pezzi hai ancora nel cassetto? Tanti pezzi. Come siete riusciti a fare una cernita dei pezzi scegliendo questi quattro pezzi? Mai, in realtà li ho scelti io e sono anche tra i più recenti sicuramente, perché poi è vero siano tanti pezzi, però bisogna sempre vedere quanti ce ne sono realmente degli abbozzi, di cose appena accennate. Esatto, questo ovvio che se rivedo le canzoni che scrivevo a 15-16 anni mi viene un po' da sorridere. E questo tuo amore per Kate Bush che si sente anche in questo pezzo, si sentiva nell'arrangiamento, però nella versione acustica, questa serra scarna, questo grande amore che tu hai per questa, solo per Kate Bush o qualche altra cantautrice? Ma diciamo sicuramente molto di più Joni Mitchell. Ah, Joni Mitchell, non c'hai la chitarra però stasera. No, ma a parte che io sono una pessima chitarrista e anche come pianista non è che sono sto granché, mi accompagno come posso, ecco, assolutamente. Però sei insegnante, te insegni musica. Insegno canto. Insegni canto. Scusa. Insegno canto, e questa sì, è una sì, cosa sì, molto importante, decisamente. No, cosa dici? Sì, assolutamente, è un lavoro che mi piace tantissimo, anzi non lo considero neanche un lavoro, perché è proprio, è una passione, insomma. Ma quando insegni, pensi che devi fare un pezzo, puoi scrivere un pezzo oppure no? Mentre insegno, sì. Ma no. no. Però la convinzione di fare un pezzo ce l'hai sempre pronta. Ah, beh, assolutamente. Come sì, nasce un pezzo tuo? Quanto un momento diverso, svariato della giornata? Ah, sì, beh, diciamo che la maggior parte delle mie canzoni sono nate o di mattina o di notte. Ah, perfetto. Assolutamente, sì. Sì, sì, sì. E questo è la title track, quando è nata? Di mattina o di notte? È nata di... oddio, chi si ricorda? No, è nata di pomeriggio perché era estate, quindi non lavoravo. Ah, eri in riposo praticamente, avevi esatto, tempo di scrivere. Esatto, è nata di pomeriggio, sì. Esatto. Benissimo. 21:30, sempre in diretta a Blu Radio Veneto con Marco Borgato, Emily Guerra, che ci fa ascoltare, ci fa percorrere il suo modo di cantare, di suonare. Adesso sentiamo un altro pezzo da CD, da disco, da questo che uscirà l'11 maggio. Certo. La seconda traccia come si intitola, Emily? Cartoline. La sentiamo, poi ne parliamo, ok? Certo, volentieri. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fotografie un po' spiegazzate. pare che si titolasse Cartolina, questo. Cartoline. Sì, mentre il microfono, mentre il pezzo andava, io e la Emily parlavamo, è un pezzo pop, assolutamente pop. Assolutamente pop. L'idea del pop, cioè del, non dico del singolo, perché il singolo adesso non esiste più, però l'idea di una musica accattivante, quello possiamo dirlo. Sì, sì, assolutamente. È partita da te o è partito da Diego, il tuo produttore? Ma devo dire che è partito anche da me, nel senso che comunque io il pezzo lo sentivo proprio così, insomma, parlando di un arrangiamento. Sì, abbastanza accattivante, avvolgente, possiamo dire questo. Sì, però comunque con strumenti veri. Esatto, non in acustico, no, ma in elettrico. Lo immaginavo proprio così, e anche Diego assolutamente ha appoggiato questa cosa e l'ha sviluppata al massimo. Al massimo della potenzialità. Esatto. E dal vivo l'avevi già provato questo pezzo o no? Sì, sì, anche questo, però sempre in versione acustica. Esatto, sempre in versione acustica. Però l'avevi immaginata in questa versione, come abbiamo detto prima? Sì, sì, l'avevo assolutamente immaginata in versione appunto in versione non acustica, l'arrangiamento perfetto, secondo me. La linea di direzione di questo disco come doveva essere all'inizio? Che intenzione c'era? Come si doveva fare? No, pop. Esattamente come è stato fatto. Non ci sono state delle variazioni durante il percorso, no? No. L'idea partita così doveva rimanere. No? Esatto, sì, assolutamente sì. E Johnny Mitchell cosa c'entra qua? C'entra qualcosa? No, Johnny Mitchell c'entra in quella che è la mia formazione, quello che le cose che io ascolto e che mi piacciono, che mi emozionano. Però ma Johnny Mitchell cosa? Blu? Assolutamente blu, oppure quella, oppure il periodo dopo blu, cioè molto lontano vicino al jazz, quindi sì, no, io preferisco Gira, per esempio, è molto fissato. Sì, no, preferisco la prima Johnny Mitchell. Sì, la prima Johnny Mitchell. Assolutamente. Quindi è stata Johnny Mitchell, è stata sottolineava un critico che assieme a Carole King è stata quella che ha sdoganato l'universo femminile negli Stati Uniti e non soltanto negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Carole King ha fatto un milione di copie con Tapestry, quindi ha sdoganato in tutti i sensi, però anche lei con i suoi dischi più importanti all'inizio di carriera, soprattutto, è stata una musicista che praticamente ha portato avanti il discorso femminile negli Stati Uniti e non soltanto negli Stati Uniti. Ricordiamo che lei ha scritto Woodstock, ti ricordi, Marco? Woodstock l'ha scritto lei e tante altre cose. Poi c'era Cobb, Steel, Nash, Young, e c'era anche Johnny Mitchell, c'era sempre lei. La West Coast faceva parte, Johnny Mitchell era al centro della West Coast. Certo. Amori musicali, non soltanto musicali, tra Graham Nash, tra David Crosby, ma al di là di questo era il connubio della musica che si faceva in quegli anni, che era straordinario. Certo. Adesso non esiste più sta roba. Purtroppo i tempi sono cambiati, però assolutamente, qualche volta abbiamo nostalgia di quella musica, qualche volta sì. Eh sì. E senti, dico il perché due o tre mesi fa, fine dell'anno, ho visto qui a Padova David Crosby e Graham Nash dal vivo. Sì. Cioè, quando senti le armonie californiane degli anni 60 e senti loro due, capisci che cosa vuol dire fare un'armonia. Capisci? Loro cantavano chiaramente a cappella, poi sono arrivati gli strumenti, ma in quel momento avevo un pezzo a cappella, cantavano loro due soli e capivi cosa vuol dire l'armonia negli anni 60, come si costituivano musicalmente. È una cosa favolosa, secondo me. E lo so che sono un nostalgico, ti vedo, Marco, tu sei un po' più giovane di me, però se vuoi fare, quando si parla di Johnny Mitchell è un vostro sacro. Ah, assolutamente. Sì, sì. Ok, proseguiamo il discorso. Sei arrivato a questo disco e poi hai fatto altre cose, non soltanto i cartoni animati, la musica dance e tante altre cose, perché bisogna provare sempre qualcosa di nuovo, non è così, Emily? Assolutamente sì. E anche devo dire che per me essere riuscita ad uscire con questo primo EP è una cosa che, oltre appunto ovviamente a darmi tanta soddisfazione, però mi sta veramente dando delle emozioni nuove che non avevo veramente mai provato, perché appunto io da tanti anni che scrivo, però non sono mai uscita con cose mie, a parte qualche concorso che ho fatto con brani miei, però questo, diciamo, è veramente il debutto per me. È un inizio, secondo te, Emily, per fare certe cose? Spero. Cioè, da solista, chiaramente. Sì. Spero. E vuoi continuare? Assolutamente, ovviamente. Mi pare giusto. Dopo tanta fatica è giusto proseguire. Cioè, adesso il disco uscirà fra qualche giorno, ma si deve proseguire, poi si deve andare avanti. Presentarlo dal vivo, con la band, e quello sarà molto, molto interessante. Assolutamente, non vedo l'ora. Hai già le date da fare? Sei già qualcosa? Qualcosa. Puoi dirle? Ma lasciamo sul vago. Esatto. puoi citare il tuo sito, quello sì lo puoi fare. Sì, anche se al momento ancora non, tra qualche giorno sarà attivo, è www.emilyguerra.it. E qui si può trovare la tua biografia, le tue, quello che hai fatto. Esatto. E lentamente, quando sarà attivo al 100%, troveremo anche le date della presentazione del disco. Esatto, diciamo che dall'11 maggio, appunto, con l'uscita del disco, poi ci sarà online anche. Produzione assolutamente di Diego e te, o solo di Diego? Insieme, autoprodotto, sì, praticamente sì. In parte. Avete un'etichetta praticamente? Beh, l'etichetta sarà Vrec, appunto, che è l'etichetta di David Bonato, esatto. Appunto, questa etichetta di Verona, ed ecco, insomma, mentre i brani sono stati prodotti, appunto, in parte autoprodotti e in parte appunto con Diego, che mi ha aiutato, diciamo, in generale proprio. La scena di Verona musicalmente come la vedi? Com'è? La scena di Verona musicalmente come la vedi? Buona? Per quanto riguarda, sì, il discorso, la gente che suona, i gruppi eccetera. Ah, assolutamente sì, cioè secondo me poi si fa sempre, è sempre più facile criticare, no? Si dice sempre nella nostra città non c'è mai niente, non c'è, invece io penso che non sia proprio così, e penso anche che diciamo che purtroppo ultimamente non c'è. C'è crisi. Sì, esatto. C'è crisi un po' dappertutto. Diciamo, quindi, che i locali non sono molto spronati a far sentire la gente che suona aiutati, pezzi proprio originali. Quello soprattutto. Esatto. Quindi preferiscono le cover, le cosiddette cover band. Sì. Siamo stanchi delle cover band, basta delle cover band. Sì. Eppure purtroppo è così. Sì. Adesso forse fanno fatica pure le cover band. Anche il cover band, vero? Sempre peggio. Sempre peggio. Esatto, però insomma, io penso che le cose stiano cambiando, speriamo nel 2012 qualcosa di positivo, almeno andando avanti. Sì. E noi andiamo avanti, 21:41, adesso facciamo un altro pezzo. Emily, che pezzo ci vai a fare ad ascoltare, fai sentire i nostri ascoltatori? Ok, allora io direi Cartoline l'abbiamo già ascoltata, possiamo sentire dopo alla fine. Sì, esatto, se, se volete vi faccio un pezzo che non è nel disco, quindi una novità assoluta per noi. Sì, una novità. Ed è un pezzo che è un pezzo semplice, un valzer, che si intitola Tra i rumori della affollata città. Bene, ok. Allora, facciamo il cambio, mettiamo il cambio microfoni. Esattamente, facciamo il cambio microfono. Ricordiamo, siamo assolutamente in diretta, sono le 21:42 e abbiamo Emily Guerra che ci presenta questo suo EP di esordio che si chiama Piume, e adesso ci fa ascoltare un pezzo inedito da disco. Esatto. Ok. Lasciatemi dormire fra la gente che parla, lasciatemi sognare fra i rumori della affollata città. Atmosfera nello spazio infinito, senza gravità nel cielo blu. Dopo l'atmosfera nello spazio infinito, senza gravità nel cielo blu. Dopo l'atmosfera nello spazio infinito, senza gravità nel cielo blu. Dopo l'atmosfera nello spazio infinito, senza gravità. Sì, era un valzer molto bello anche dal punto di vista musicale, come cantavi, un po' in modo particolare, un po' in falsetto, c'è un leggero falsetto. A me il falsetto piace molto e secondo me è molto difficile il falsetto, però come mai spesso e volentieri si usa? Tu praticamente sei insegnante di canto, il falsetto, ma è difficile il falsetto, non è semplice. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi tra l'altro bisognerebbe essere un po' caldi vocalmente per riuscire a fare il falsetto. Sì, esatto, però insomma più si usa e più scaldi la voce, più si usa e più viene bene. Più viene bene. Sì. Questo è l'arrangiamento scarno, voce e piano. Sì. Ci potrebbe essere anche un violino qua, cosa dici? Ah beh, ci potrebbero stare tante cose, sì, infatti quando la presentiamo appunto dal vivo con appunto Luca Peretti alla chitarra, Marco Bosco al basso. Che basso, cosa ti dà il basso di come si chiama il musicista? Bassista che hai citato, Marco Bosco. Marco Bosco, cosa ti dà un basso in un valzer praticamente? Dà tutto l'andamento ritmico esattamente. E tutte le note fondamentali, quindi è bello, è molto bello. Sì, ci sta a pennello. Poi a volte suona con il contrabbasso, per cui proprio si presta benissimo. E tu che hai solcato anche i terreni jazz, si presta anche un momento jazz questo pezzo, lo puoi scivolare in un momento jazz, lo puoi condurre verso un'atmosfera jazz, non proprio, vero? Ma io direi un po' di no. Swingante sì, però leggermente io voglio cercarti di portarti in determinati percorsi che tu hai fatto, vediamo. Ma direi che no, non lo associerei troppo, non lo associerei al jazz, perché è proprio, anzi, è proprio la semplicità più pura, quindi non ci sono accordi troppo, non so come dire, sì, troppo ricchi. Esattamente. E quindi parte da una ricerca di semplicità in realtà. E come mai non l'avete messo dentro il disco? Perché ce ne sarebbero tante da mettere, però chissà che in futuro non si riescano a fare tutte. Però questo era un bel pezzo, almeno musicalmente sentito qua, avevo visto un certo peso. Oddio, mi fa piacere che ti sia piaciuto. Sì, sì. Questo cantare danzando è una cosa molto positiva, fa un certo fascino. Ok, 21:47, quindi stiamo parlando con Emily Guerra di questa sua idea di fare, non di questa idea, non è un'idea vera e propria, è finalmente il raggiungimento di un traguardo importante, questo disco nuovo da presentare. Sì. Praticamente. E abbiamo detto che l'arrangiamento è tuo assieme a Diego, la casa discografica è David Bonato, e ha partecipato, oltre ai musicisti che abbiamo citato, nel disco ci sono qualche altro. Tu hai una band da vivo, nel disco ci sono stati solo te e Diego che avete costruito tutto quanto, o c'è stato qualcun altro? No, allora i musicisti che hanno registrato i brani dell'EP sono dei musicisti che appunto lavorano con Diego Calvetti, quindi sono dei musicisti, possiamo dire. Sì, sono dei musicisti appunto che lavorano nell'ambito toscano. Ci dobbiamo sottolineare che Diego Calvetti ha lavorato con Noemi, è arrivato con Fiore da Mannoia, con Patti Pravo, con la Muruso, che adesso sta facendo grande successo. Cioè, esatto. Sì, ha fatto anche dei brani importanti. Appunto ha arrangiato tutto l'ultimo album di Patti Pravo e poi appunto ha scritto L'amore si odia, pezzo di Fiorella Mannoia, sì, esatto. E Noemi, poi ha tanti altri successi, veramente tanti altri, un grande, infatti è stato veramente un onore, una cosa positiva. Sì, è stata un'esperienza stupenda. Ma è stato un caso che l'hai conosciuto? In realtà un caso, cioè ci sono stati dei contatti probabilmente? No, in realtà no, perché io era da circa 2 anni che mandavo i miei provini casalinghi via mail. Ho capito. A tutti quanti. Esatto, e niente, mi ha risposto Diego e da lì insomma sono andata a casa sua, abbiamo ascoltato un po' tutto il vario materiale che avevo a disposizione, però diciamo avevo già un po' le idee chiare dei pezzi che avrei voluto fare. Poi c'è stato un piccolo cambiamento, nel senso che un pezzo invece poi alla fine l'ha scelto lui. Però tu sono sei stata soddisfatta? Assolutamente. Sì. Ok, va bene. Assolutamente sì. Ed ecco, i brani in realtà sono stati registrati in vari step, perché lui chiaramente è anche molto impegnato, per cui ho fatto parecchi avanti e indietro, da Verona Toscana, Siena, Siena Verona, però lui è stato veramente eccezionale, perché mi ha comunque ospitato a casa sua, mi ha fatto da mangiare, questo già una volta, esatto, e quindi mi sono trovata veramente bene con lui e con tutte le persone che lavorano con lui. Quindi lui ha uno studio di registrazione praticamente. Lui ha lo studio di registrazione a casa proprio. Quindi... Sì. Quindi è molto positivo. Cioè, sì, cioè molto comodo. Esattamente, è comodo, non perde tempo ad andare un altro studio, è là, proprio di fronte, avanti, sì. quindi il tempo viene praticamente usufruito suonando praticamente. Esatto. E tu dicevi che hai mandato un sacco di provini a tanti produttori. E mi viene in mente del povero Lucio che quando Bersani, tanti anni fa, mandò una famosa cassetta sul concerto di Lucio Dalla, c'era Bersani tra il pubblico, e rifilò una cassetta, una volta si usavano le cassette, sul palco. Gliela butto, è la storia, è un fatto che molti ricordano. Qualche giorno dopo il buon Lucio telefonò a Bersani: bravo, vieni con me. Cioè, incredibile. Così anche con Luca Garboni una cosa simile è successo. Capita anche questo. Incredibile così. Ok, sentiamo un altro pezzo da disco. Mi pare ci sia ancora un altro pezzo, mi pare, Marco. Che traccia ti ricordi il titolo? Sì, Dopo l'acquazzone. Ah, Dopo l'acquazzone. Non è come adesso che è stata una bella giornata. Oggi è già stato il sole finalmente. Ieri era così però. ma infatti dopo l'acquazzone c'è sempre il sole. Esatto. Blu Radio Sera. Come l'inchiostro alla notte più scura, ombre stranissime mettono paura, ma poi ti accorgi che dalla collina in un istante è già mattina. Come una barca perduta nel mare, dondola sola non sa dove andare, ma poi ad un tratto un faro lontano si muove lento per farla ritornare. L'alto, il titale, il burro con il pane, le stelle filanti quando è carnevale. sembrava che ti divertivi a cantare sto pezzo, era un divertimento, assolutamente, sì. Era così. È vero, è vero. Un bel divertimento, ma è bello che sia così, vuol dire che il pezzo l'hai sentito subito e ti è entrato immediatamente. Ah, sì, è un pezzo, questo era il famoso pezzo che io subito non volevo fare. Ah, che invece Diego ha detto sì, lo facciamo. Sì, e questo... esatto, però poi devo proprio dire che ha avuto ragione lui, perché è... un po' ridanciano, tra virgolette, divertente, anche se sì. Il testo non è proprio divertente al 100%. Un po' cioè qualche pizzico di malinconia. Un pizzico. È un pizzico, vero? Sì, è una sua caratteristica questa. Ma forse sì. Forse sì. Però diciamo che se metto quella nostalgia, quella. La nostalgia è una bella cosa. Esatto, poi ci vuole sempre per poi, no? Contrapporre. Esatto. Adesso facciamo una cosa di questo genere, Marco lo sa. Il solito nostro viaggio pindarico, i famosi dischi da portare su un'isola deserta. Non puoi copiare, visto che sei da sola stasera, sei solo. Non posso copiare da nessuno. Altri, con nessuno. Questa è una domanda davvero difficile. È una bella domanda, perché secondo me la domanda che facciamo da quanti anni facciamo? Sì, facciamo 5. La domanda che facciamo da tanti anni, Marco, tantissimi anni, però è una caratteristica di questo programma, sia Blu Radio Sera di adesso, oppure Rockaway che va in onda mercoledì dalle 10 in poi, dalle 22 in poi. Cosa puoi portare, Emily, che tu puoi amare musicalmente per là? Allora, beh, ci sono tantissime cose, mamma mia, questa è una bella domanda, ma una domanda difficile. Sì, lo so, complicatissima, perché dici ce ne sono centinaia di migliaia che corrono. Sì, perché poi c'è sempre da differenziare quello che, cioè ad esempio io adesso ascolto delle cose che magari anni fa non ascoltavo. Però ci sono pezzi legati al passato che ritornano, che sono, ma che, a cui sono particolarmente legata. Però diciamo, ecco, per la musica che amo adesso, che veramente mi dà tante direi assolutamente Grace di Jeff Buckley. Ah, adesso ci fermiamo un secondo, ha citato Grace Marco, come mai Grace, che ha fatto un disco solo Jeff Buckley, mito eccetera, ma sai quanta gente che è venuta qua a suonare da noi tanti anni, sono 7-8 anni che facciamo Rock Wave e Blu Radio Sera dal vivo, tantissimi hanno citato Grace, Jeff Buckley. Che fascino ha Jeff Buckley? Che voce ha Jeff Buckley? Perché ha rifatto Alleluia e tutti ricordano l'Alleluia di Jeff Buckley, mentre che il pezzo di Leonardo Cohen. Esattamente. Io posso solo dire che quando l'ho sentito la prima volta proprio mi ha emozionato come... Da dentro? No, ma proprio tanto. Sì, sì. E ogni volta che lo ascolto ha sempre lo stesso effetto. Mojo Pin, io ho appena messo le cuffie proprio e mia mamma mi ha portato via. Sì, assolutamente. Quindi Grace, per cui, sì. Grace Jeff Buckley, assolutamente. Assolutamente. E suo papà lo conosci? Suo papà sì. Tim Buckley. Tim Buckley, esatto. Sì, anche se... È un po' diverso. È un po' diverso. Però il DNA c'è. Il DNA, assolutamente, certi pezzi non dicono siano collegati, però... però se non c'era Tim Buckley non c'era neanche Jeff Buckley musicalmente, secondo me, non so se sei d'accordo, Marco. Sì, quasi non totalmente d'accordo, non totalmente, però qualcosina è d'accordo. Qualcosina è d'accordo. numero due, non in linea di successione, numero due come scelta, certo, come scelta. Beh, assolutamente, come dicevo prima, non può mancare Blu, Blu di Johnny Mitchell. Disco meraviglioso. Non ce n'è una che tutte perfette. Sono tutte perfette, bellissime. Poi ha raggiunto l'apice, qualcuno dirà non è vero, ha fatto dei dischi migliori, ma su altri versanti quello è aggiungibile, secondo me. Cioè, sì, anche secondo me. Bello anche della copertina, bello tutto. È tutto bello. È tutto bello, esattamente. Di Johnny Mitchell. Sì, esatto, assolutamente quello non può mancare. E poi aggiungerei anche, si può anche un tè, sono tre? No, sono cinque. Ah, sono cinque, sì, ok, allora. Beh, direi Pink Moon. Nick Drake. Che bello, abbiamo citato Nick Drake, è bello. Assolutamente sì. Perché, sì, perché hai citato Nick Drake? Ami la musica di Nick Drake? Assolutamente sì. È un altro artista che assolutamente mi emoziona un sacco. Ed è difficile, non è mica un artista semplice. Che i chitarristi che sono venuti qua l'hanno ripetuto un sacco di volte. Suonare i pezzi di Nick Drake è difficilissimo, perché lui ha inventato degli accordi un po' particolari che vanno al di fuori della normalità. Però certo, per lui. Certo. Però lui Ecco, lui secondo me è proprio un esempio di quella che è, come dire, l'essenzialità. Mm. Adesso mi sto un po' incasinando con le parole, però assolutamente i suoi pezzi sono comunque non sono semplicissimi, no, no, questo non voglio essere, però il suo modo di cantare, il suo modo di interpretare, il suo modo di usare la voce, colpisce subito, immediatamente, sì, e in modo semplice sì. Non, senza fronzoli, no. Non so come dire, ecco, e questo è la cosa che mi piace assolutamente. Un artista che ha cominciato lentamente, progressivamente a avere successo, non avere successo, essere conosciuto, e sempre di più, anche se all'inizio nella sua carriera ha venduto pochi dischi, era diventato un oggetto di culto, e poi finalmente la gente ha capito quanto era grande e continua a capirlo. Sì. Una cosa positiva. Anche se ha avuto una storia, anche lui molto sì, triste. Sì, molto triste, decisamente. La tristezza è la bellezza delle cose. Beh, Marco lo sa, qualche tempo fa la pubblicità della Volkswagen, vero Marco? Ha citato un pezzo da Pink Moon, è stato proprio Pink Moon e dicevano, ho letto su un giornale qualche tempo fa, che era stato talmente grande la curiosità della gente a sapere chi cantava questo pezzo, che sono dovuti ristampare i dischi di Pink Moon di Nick Drake. Proprio sono state le ristampe, una conoscenza enorme, la gente voleva capire ma chi cantava questo meraviglioso pezzo, lo spot pubblicitario della Volkswagen. Mamma mia, incredibile. Era incredibile, eppure è stato un fatto positivo per Nick Drake, per gli eredi più che per lui, purtroppo. Però certo, era una cosa bella che riscoprì un personaggio di grande valore come lui. Certo. Poi io direi un artista attuale che io adoro veramente tantissimo, che è Anthony and the Johnsons. Ah, Anthony and the Johnsons, bene, siamo d'accordo io e Marco. Marco è molto soddisfatto di questa tua scelta. Per cui I Am a Bird Now. Ah. Il disco, sì, io lo è adoro. Era Lurid quando l'ho scoperto, ha fatto bene, ha fatto molto bene. Assolutamente, sì, lui penso che proprio sia proprio forte. Mm. L'hai visto forte qualche volta dal vivo? No, vabbè, dal vivo no, ho visto concerti. Hai visto i concerti? Certo. Su YouTube, certo, varie registrazioni. Un po' di tutto. Esatto, e lui tra l'altro dalle registrazioni che ho visto live è incredibile, ha una forza comunicativa pazzesca. È bravissimo, personaggio molto particolare. Molto particolare. Anche vocalmente incredibile. Anche vocalmente incredibile, assolutamente. Riesce a fare delle cose incredibili con una naturalezza. Esattamente. Bene, sì. Numero 4? 5. Ah, 5, sì. Sei già il quinto. Ah, perfetto, sei il quinto, ho sbagliato io. Sì, è il quinto. Siamo già al quinto. Purtroppo, finito. Volevo praticamente fartene fare un altro. Ok, allora facciamo qualcosa di un pochino più... perché chiaramente se sono in un'isola deserta non posso ascoltare sempre cose un po' tristi. Tristi. Qualsiasi disco di Stevie Wonder. Il sole, il sole che illumina. Sì, io lo adoro. Qualsiasi, quindi, veramente. Un the best. Hai cantato anche Black Soul nella tua carriera. Sì. Intanto. Io proprio sono partita a 14-15 anni, ero patita di tutto quello che era Black Music, per cui Stevie Wonder, Otis Redding, tutta la musica di quel genere. Sì, assolutamente. Poi ero veramente ammagliata dalle grandi voci anche di Whitney Houston da ragazzina. È un pezzettino di cover in questo momento live, non lo puoi fare? Ma di Whitney Houston? Quello che vuoi. Di Soul, di Black, quello che vuoi. No, dai, lasciamo stare. Io tentavo, cari ascoltatori. Il miracolo di Blue Radio Sera, a cui qualche volta capita. Sì, lo facciamo. Beh, non si sa mai, fino alle 10:30 abbiamo tempo. C'è sempre tempo. Adesso sentiamo un altro pezzo live dal vivo. Volentieri, Emily, che cosa certo ci fai sentire? Allora, essendo che comunque i pezzi delle pili sentiamo registrati, giusto? Certo. Quindi c'è l'altra traccia, che dopo faremo sentire. Che tra l'altro è pianoforte e voce. Che traccia importante per te? È una traccia molto importante per me, perché questa non è stata fatta con Diego Calvetti. È un pezzo pianoforte e voce che ho registrato proprio per ultimo, proprio perché ci tenevo a far sentire anche questo aspetto, la tua faccia musicale. Sì, esatto. Ma dopo ne parliamo dopo. Adesso cosa va bene, canti? Allora adesso canto Coriandoli. Perfetto. Tutti titoli corti, con una parola. Beh, essenziali, possiamo dire così, essenziali. Molto essenziali, esatto. Allora. Ok. Allora. Pagine strappate volano fra gli alberi, svelano i tuoi pensieri per poi dissolversi fra la pioggia e il vento che con sé li condurrà oltre il tuo sguardo perso fra i sogni e la realtà. Flash fino all'ultima nota, fino all'ultimo secondo, mi pare giusto, non si può tagliare, anche qui non si taglia niente, mi pare giusto, assolutamente. Pezzo molto bello, musicalmente parlando, molto complesso, anche complesso, ti sei fermata, poi ripreso, ti sei fermata, poi ripreso il ritornello. Un pezzo romantico, ma un romantico che ti entra dentro stavolta, mi pare. A me sì, spero... Sì, ha dato questa sensazione, chi l'ascolta è sottoscritto e a Marco. Mi fa piacere. Questo era questo importante, quindi si sentiva che era un pezzo importante, un pezzo anche musicalmente, un testo che era significativo per te. Sì, molto, molto. È un pezzo che è nato in modo strano, perché... posso raccontare? Ma certo, no, puoi, devi raccontare, assolutamente. Sono andata da un amico musicista. a far sentire un po' appunto i miei provini, le mie canzoni, per avere qualche consiglio, qualche dritta, insomma, e che ce n'è sempre di bisogno. E lui appunto mi ha consigliato di provare a scrivere dei testi facendo meno uso di metafore, cosa che io veramente tendo tantissimo sempre a fare. È così, mi viene automatico. E così appunto ho provato veramente a scrivere, a buttare giù delle idee, cercando di sforzarmi nel cercare di evitare appunto di non girare intorno, di non usare, cioè di dire le cose esattamente come stanno. E venivano fuori tutte schifezze incredibili. Ho capito. E alla fine, forse come uno sfogo, è nata questa canzone che appunto usa poche metafore, pochissime, vero? No, è esattamente va direttamente dritto nel segno. Ma in realtà ci sono parecchie metafore anche qui, sì, però forse un po' meno rispetto agli altri. Ma io credo di non essere riuscita molto nell'intento. Questo t'ha sentito questo personaggio, questo musicista qui, poi hai sentito la versione di questo pezzo? No, poi no. Me l'hai perso di vista. Però sì. Appunto, pagine strappate, volano fra gli alberi, sta proprio nel fatto che continui a scrivere qualcosa che non ti soddisfa. Mm. E alla fine nasce questo testo che dici, ok, ci sono le metafore, però io dico esattamente quello che pensi, quello che voglio dire, certo. E mi emoziona, e quindi alla fine grazie che alla fine è nata questa canzone. È difficile quando scrivi un pezzo e non riesci a arrivare alla nota finale, ti manca sempre qualcosa, può capitare? Oh, sì, assolutamente. Capitato. Ci sono tanti pezzi inconclusi ancora che aspettano di trovare la loro strada. Mi diceva un ragazzo, un musicista che è venuto qua tempo fa, che lui aveva un pezzo in mente e non riusciva mai a trovare la fine, cioè la fine del cerchio, e per un mese continuamente gli girava intorno, finché un giorno, in un secondo, è riuscito a concludere il cerchio. E capita così. Assolutamente sì. Ci sono pezzi che scrivi, io parlo per quello sì. che mi riguarda, ci sono pezzi che ho scritto anche in anni e pezzi che ho scritto in 10 minuti. Ah, vedi. Quindi come va? Non c'è una regola. Non c'è una regola. Almeno per me non c'è. Ma penso che sia bello così, che non ci sia una regola, sennò il musicista non può diventare una cosa a contratto. Sì, lo fanno i parolieri, i musicisti, però uno quando scrive un pezzo proprio è un po' difficile scrivere robe a contratto, secondo me. Anche sì. Se capita, per carità. Sì, assolutamente. Io penso che sinceramente farei fatica. Perché forse con l'esperienza, andando avanti, continuando a provare a scrivere, però io mi rendo conto che ogni volta che scrivo, alla fin fine parlo di quello che vivo, di quello che provo, cioè i miei pezzi sono tanto cuciti su di me. E quindi pensare di provare a scrivere per qualcuno, o che veramente vado a scrivere per una persona che conosco bene e che... Però insomma, quello comunque non mi è ancora capitato, certo. Quindi chissà. Ti ho fatto questa domanda, tu che hai frequentato tanti anni fa il chat di Mogol, si rispedava quell'aria là? Non penso di scrivere i pezzi per contratto. No, assolutamente no. Si lavorava proprio sul fatto di scrivere dei bei testi che avessero... Un senso, un qualcosa veramente di profondo. Poi chiaramente se si va... Si lavorava molto sul fatto di prendere dei pezzi in inglese, ad esempio, e provare a fare i testi in italiano. Su... Ma pezzi famosi o pezzi... Pezzi famosi. Di qualsiasi genere. È stata una palestra bellissima. Difficile allora? Molto difficile. Molto difficile, anche perché io tra l'altro, venendo da anni fa appunto, ascoltavo tra l'altro musica etnica, musica elettronica, ho avuto un periodo un po' pazzo, diciamo. No, perché pazzo, di indagine, possiamo dire, di scoperta, dai. Certo, e diciamo che io poi tra l'altro ero molto abituata, cioè sono sempre stata abituata a cantare in inglese, per cui per me... Iniziare a scrivere in italiano è stato veramente molto difficile, proprio abituarmi anche alla sonorità e trovare... Che differenza c'è tra l'inglese, scrivere in italiano e scrivere in inglese? Anche musicare in italiano e musicare in inglese? Beh, diciamo che assolutamente in italiano intanto hai molto più spesso parole più lunghe, Marco è per l'inglese, assolutamente. Assolutamente per Marco l'inglese. È per l'inglese, assolutamente. Sì, ma ripeto, anch'io dei cinque dischi che ho portato con me, alla fine sono tutti in inglese. Esatto, nessuno in italiano, esatto, nessun disco italiano. Questo, questo fa capire che i miei ascolti per lo sono improntati a quel genere musicale. Sì, sì, sì. Però per me devo dire che scrivere in italiano è stata una grande vittoria, soprattutto mi ci ritrovo tantissimo e mi sento molto sincera proprio in quello, mi sento libera di esprimermi, chiaramente. Quindi non torneresti più indietro? Assolutamente no. Assolutamente no. Hai fatto come gli After Hours, che scrivono in inglese e poi sono da molti anni scrivono in italiano. Però ci sono gruppi, tanti gruppi che sono venuti qua italianissimi, che continuano a scrivere in inglese. Certo. Perché si trovano meglio, perché non so. Poi dipende anche dal genere. Certo, perché dipende anche poi dal genere. Il rocchettaro è un po' difficile scrivere in italiano. Sì, assolutamente sì. Esattamente. Rocchettaro nel senso positivo, non assolutamente negativo. Rocchettaro nel rock. Cioè, sì. E rifacendomi al discorso di prima del chat, io ho provato anche su mie canzoni che sono nate in inglese, ho provato a scrivere dei testi in italiano e non ci riesco. Non ci riuscivo. Perché proprio la melodia è costruita sull'inglese, quindi trovare le parole in italiano non rende, cioè si sente proprio che non va. Che è una cosa costruita, non è nata. Bene, a proposito di melodia, adesso sentiamo il famoso quarto pezzo, quello quarto che tu ami particolarmente. Adesso però lo presenti prima perché è molto importante. Va bene. Beh, questo pezzo è Anime, è un pezzo che intanto che non ha prodotto Diego Calvetti. Diego Calvetti, hai prodotto te. Sì, esatto. Assolutamente. Sì, è un pezzo che parla di fragilità, di forza, nel cercare di superare le fragilità. E poi parla anche di come qualcuno che ti è vicino può in qualche modo aiutarti nell'andare avanti, nel superare, quindi parla anche di come dire, di un'unione, di un affetto che può esserci tra due persone. E quello è un pezzo importante. Sì, importante. Lo sentiamo allora. Okay. Assolutamente. Blu Radio Sera. Calpestero, pezzi di fragilità, e raccoglierò conchiglie sulla spiaggia. È così facile piangere, sorridere, dirsi addio, non smettere di ascoltare per capire. Solamente io e te, tuoi fantasmi nella notte, trasparenti fra le lucciole. Oh, oh, oh, oh. Abbiamo sentito questo pezzo che il tuo produttore Diego Calvetti ha detto no, è tutto tuo, non ci metto le mani, è così Emily? Più o meno, più sì, o meno sì, così. Sì, sì, sì. È stata una cosa positiva. Ma in realtà sì, io sono contenta che sia stato fatto appunto pianoforte e voce. E doveva concludere l'EP? Sì, esatto. L'idea era proprio questa? Sì, era proprio questa. Mm. Sì, sì, sì, sì, sì. Eri già partita, sì, 1, 2, 3. E il quarto era quello. Eccola lì, esatto. E dal vivo come lo fai? Cioè, come lo farai dal vivo? Oh, esattamente così. Così, non ci saranno gli altri strumenti, canterai solo te. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Proprio questo è un pezzo che sta bene così. Mm. Non ha bisogno di percussioni, non ha bisogno di... No, io penso ma di... poco lievi... Beh, qualcosina, qualcosina, proveremo a fare qualcosina. Qualche accennato, qualcosina. Qualche giretto di chitarra acustica potrebbe andare bene. Sì, è vero, è vero, è vero. Però... dai, faremo qualche tentativo. E come tu hai detto che ci sarà un gruppo che ti seguirà, 3-4 persone, mi pare, basso, batteria, chitarra. Esatto. Quindi la struttura dei pezzi sarà un po' più mossa o vicina a... al disco? No, non sarà molto vicina al disco in realtà. Acustica sì, però no, acustico oppure esatto, sì, sì. Un mezzo e mezzo. No. Diciamo sì, acustica. Ci sarà l'elettrica? Ci no. Sarà magari qualche parte di elettrica pulita ovviamente. Però ecco qualche pezzo con la batteria, però diciamo l'atmosfera generale sarà abbastanza soft, non sarà così energica tanto quanto l'EP. Proprio perché non faremo in elettrico, semplicemente certo. Per questo, insomma. Ho capito. Prosegui ancora anche i tuoi progetti come band, oltre a quello solista, progetti ancora, porti avanti ancora il progetto che abbiamo citato, di arte tra Zucchero e... Zucchero Candinsky. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché è un trio che mi dà tanta soddisfazione proprio, anche perché tutti e tre i componenti di questo gruppo, appunto io, Luca Peretti e Luca Zanotti, che tra l'altro Luca Peretti è lo stesso che collabora al tuo disco, al disco esatto, che suona con me nel live. Nel live. E, però appunto questi Zucchero Candinsky proprio siamo come una famiglia, potrei dire, e poi abbiamo dei gusti musicali molto molto simili, quindi non siamo sempre d'accordo sulla scelta dei pezzi e facciamo semplicemente quello che ci piace. Ah, direttamente non c'è una non scaletta prefissata? No, meglio, c'è assolutamente, c'è, anche se è sempre molto aggiornata. Mm-hmm. Però appunto ci ritroviamo veramente quello che emoziona a me emoziona anche loro e il contrario. È una cosa che ti devo chiedere, tu parlavi che c'è una certa crisi di spazi, per Emily come solista ci sarà posto per suonare da qualche parte? Sì, sicuramente. Speriamo di sì, dai, speriamo di trovare qualche angolino. Non chiedo tanto, mi basta davvero un angolino, anzi quasi meglio. Quasi meglio. Ci sarà sicuramente, è difficile però ci si deve tentare. Sì, sì, sì, ma anche perché ce n'è proprio, cioè c'è bisogno. Ne ho bisogno proprio io per perché siamo un po' stanchi, abbiamo detto all'inizio, siamo un po' leggermente stanchi delle cover, anche se tu fai parte di una band che qualche volta fa le cover. Ma sì, sì, sì, sì, appunto, anche se appunto cover è un po'... È un nome un po', al di fuori di quelle che si sentono... Solitamente, insomma, solitamente. Cerchiamo sempre di proporre dei pezzi che solitamente non si sentono. Per esempio che cosa? Ad esempio Hurt mi sfugge il nome, di Johnny Cash, la versione di Johnny Cash rivisitata un po' anche da noi. Cover di un certo peso. Sì, esatto, cerchiamo sempre, poi rivisitiamo pezzi dei Radiohead, di Björk, di Tori Amos, facciamo un po' di tutto. E la tua voce si presta a fare ste robe? Sì, io mi diverto molto con loro. Ecco, hai citato la... mi chiedono di farti... No, hai detto che non vuole suonare Art di Johnny Cash. Non la vuole suonare, c'è poco da fare. Vorrei qui i miei chitarristi per farla e per dargli veramente giustizia. Indirettamente Johnny Art, Johnny Cash ti sentirà. Esatto, no, i pezzi o si fanno bene o non si fanno. Vabbè, okay, non c'è stato niente da fare, Marco. Io ho tentato, dalle 9 che tento, non c'è niente da fare. Bene, abbiamo quasi concluso, sono le 21, 22, 26, quasi 27, quindi abbiamo circa 3-4 minuti prima di finire. Certo. E finiamo chiaramente con un pezzo dal vivo. Assolutamente. Ti ringrazio di essere venuta qua stasera. Ma grazie a voi, è stato un giro da Verona, non è stato tanto distante, però è stato positivo che tu sia venuta. Assolutamente, per me è stata una bellissima esperienza. Ricordiamo il titolo dell'EP che uscirà il 11 maggio. Piume, prodotto da te e da Diego. Diego Calvetti. Diego Calvetti, mi ricorderò mai il suo cognome. Lo chiamo Diego, esattamente. E quindi io spero di ritrovarti qui in giro anche a suonare. Speriamo, vengo volentieri, assolutamente. Benissimo, okay. Grazie a Marco Borgato in regia. Grazie stasera mille. Mi ha dato una mano in Blu Radio Sera. E cosa concludi? Cosa ci saluti, Emily? Allora, questo è un pezzo che... è uno dei pezzi che è nato in 10 minuti. Ah, perfetto. È nato in 10 minuti. È lungo 10 minuti allora? No, non è nato. No, no, no. Un po' più corto. È un po' più corto. È un pezzo che non vi dico di cosa parla perché lo sentirete adesso. Quindi niente, ve lo canto direttamente. Benissimo, grazie e buonasera a tutti. Fra poco arriva Renato col suo rock. Grazie mille a tutti. Stiamo provando, sta solo provando l'accordo. Sta solo provando. Ci sto provando con un attimo di panico. Non c'è problema. Adesso partiamo. Ok. Oddio, mamma mia, che lapsus incredibile. Niente. Yeah. Okay, ok, ci sono. Viene. Scusate. Come fosse l'ultimo respiro prima di spogliarmi da ciò che invecchierà, come fosse l'ultimo pensiero prima di tornare a casa. Spero di non trascurare ciò che conta, spero di non esser cieca mai guardandoti, spero di non perder tempo in cose vuote inutili, spero di non aver nulla mai da dover rimpiangere. Come fosse l'ultima occasione di guardare il mondo senza gli occhiali, come fosse l'ultima canzone senza parole. Spero di non trascurare ciò che conta. Spero di non essere sorda mai ascoltandoti. Spero di non scordar mai gli sbagli per non ripeterli. Spero di non smetter mai di abbandonarmi a pieno l'amore.